rigorosamente in diretta su CRMF Radio all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. È arrivato anche Giuseppe, il nostro fan numero 5000, che trascorrerà il pomeriggio insieme a noi. Dei Glad Awards, i premi assegnati alle personalità particolarmente attive nella difesa dei diritti gay, beh, Madonna si è presentata in divisa da Boy Scout, un gesto provocatorio per denunciare le regole dello Stato degli Scout americani, dello Statuto degli Scout americani. L'associazione non permette infatti l'accesso alle persone dichiaratamente omosessuali. Da ragazzina dice: "Volevo diventare Boy Scout, ma non mi hanno accettato." Penso sia una cavolata. In versione brava ragazza, la Material Girl ha iniziato il discorso elencando quindi le qualità che avrebbero potuto fare di lei un'ottima Boy Scout, e dice: so accendere fuoco, so piantare una tenda e ho un ottimo senso dell'orientamento. Inoltre dice: riesco a salvare i gattini intrappolati sugli alberi. E ancora continua la pop star, dice: volevo qualcosa di buono per la comunità. Beh, ma lei sicuramente già qualcosa di buono lo fa, perché è sempre impegnata in campagne di, comunque, di beneficenza, e oltre, insomma, è sempre molto molto generosa la nostra grande pop star americana Madonna, che è un idolo per tutti quanti noi. Bene, brava Madonna. È arrivato il mio carissimo collega Giuseppe, che come sempre è in ritardo, cioè lui mi ha praticamente superato, peggio di me sei Giuseppe. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio a tutti. Stavolta non è colpa mia, Jerry. Non è colpa tua, di chi è la colpa? Mia. Di chi è? È colpa del nostro fan numero 5000, che è qui nostro ospite. Chi è arrivato oggi? Il nostro fan? Esattamente. E praticamente ho dovuto aspettare lui, quindi perché gli ho dato un passaggio, eccetera, perché noi abbiamo i fan, insomma, che la sera prima si vanno a divertire fino alle 6 del mattino. Bene, bravo. E poi, insomma, poi l'indomani giustamente la mattina non riescono, non si svegliano. Esatto. Quindi lui dice di aver messo la sveglia alle 11:30, invece alle 2:30 ancora dormiva. Bene, allora salutiamo, che dice? Eccolo qua, ciao Vincenzo da Cerda, ciao. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Benissimo. Ti sei svegliato, insomma? Beh, diciamo di sì, dopo questa bella salita per arrivare qui in radio. Che gli ho fatto fare, Jerry, la salita questa della radio, insomma, per svegliarsi un po'. Quindi è abbastanza sveglio. Una gran bella salita questa. Lo vogliamo conoscere perché io l'ho conosciuto, insomma, da qualche giorno. Allora, ed è un sì, tipo veramente simpaticissimo. Diciamo, insomma, che Vincenzo, oggi lo ricordiamo ai nostri amici, magari per chi non lo sapesse, sì, si trova qui insieme a noi all'interno di Semplicemente Insieme perché è stato il nostro fan numero 5000, quindi ha cliccato sulla pagina di Facebook di, esatto, CRM. È stato proprio lui a cliccare. È stato quindi il numero 5000. Quindi mi piace. Mi piace. Quindi ricordiamolo intanto a tutti i nostri amici che in questo momento ci ascoltano, che dovete andare, c'è un ordine proprio, no dai. Dovete andare, se ci ascoltate, su se CRM vi piacciamo. Allora, sì, andate sulla pagina di Facebook CRM Happy Radio, andate a cercarla, insomma, e cliccate mi piace. E magari, se siete fortunati, insomma, sareste, sì, sarete qui ospiti da noi a Semplicemente Insieme, oh, con la bella, simpaticissima Jerry. Veramente è da conoscere, Jerry. Sì, venite, grazie, a conoscerla. Grazie, grazie, Giuseppe, grazie, grazie. Prego, prego. E allora, Vincenzo, come ti sembra il nostro studio? Ti piace? Eri mai stato in uno studio radiofonico? No. Questa è la prima volta? Sì, è la mia prima volta. Dai, è carino. Infatti, dovresti stare un po' spesato, un po' rigido. Un po' più vicino al microfono. Rilassati, ecco. Vincenzo, tranquillo. Tu sei, vieni da Cerda, abbiamo detto. Sì. Mm-hmm. Quindi sì, dal paese dei carciofi. Dal paese dei carciofi. Potevi portare un po' di carciofi, facevamo magari poi. Non ha avuto tempo. Non ha avuto, vero, tempo. Si è svegliato tardi. Scusate, da Carciofilandia. Carciofilandia, appunto. Allora, Vincenzo, vogliamo parlare un po' di te oppure ascoltiamo prima una canzone? Cosa dici, Jerry? Mandiamo un po' spazio alla musica e poi naturalmente così facciamo rilassare Vincenzo, che lo vedo un po' rigido. Sì, sì, sì, aumentiamo un po' la suspense di conoscere il nostro fan numero 5000. Così magari poi ci richiederà qualche canzone preferita, qualche, se ha da fare qualche dedica, salutare qualcuno. Ti vuoi mettere in pericolo, Jerry, oggi? Ah, bene. Perché io l'ho conosciuto e... È pericoloso? È un po' pericoloso, sì, sì, sì. Bene. Una cosa sola che volevo dire, volevo salutare tutti i miei amici del Peace and Love. Peace and Love, okay. Yeah. Che cos'è Peace and Love? Pace e amore. No, cos'è? Un'organizzazione, un bar? No, no, è un gruppo di amici che ci ritroviamo di solito la sera. E quando ci vogliamo bene, ci guardiamo negli occhi, facciamo con un gesto Peace and Love. Esatto, questo, quindi peace and love. Pace e amore, bene. Pace e amore, ci vuole sempre pace e amore. Secondo me l'amore è l'essenziale, gente. Ma certo, è il motore proprio della vita. È il motore della vita. Che muove tutto. Chissà cosa sarà l'essenziale per Marco Mengoni. Ma chissà, lo scopriamo che cos'è l'essenziale per Marco Mengoni, lo scopriamo. Andiamo ad ascoltarlo, il primo classificato di Sanremo, Marco Mengoni, l'essenziale. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero poche stupide. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Semplicemente insieme, insieme a Giuseppe. Giuseppe è oggi un ospite speciale. Ospite speciale che è Vincenzo. Noi durante la pubblicità stavamo un po' spiegandogli come funziona un po' tutto l'ambaradam, ecco, come mettere una canzone, come andarla a prenderle, a inserirla in lista, come arrivano le nostre, da dove arrivano le nostre chiamate sul sito. Anche se per il momento abbiamo un po' di problemi sullo streaming, il server insomma fa un po' di capricci e quindi non va la diretta video. Forse solo audio, se non... Ah sì, solo audio? Credo di sì, credo. Comunque possono sempre ascoltarci i nostri ascoltatori appunto sulla frequenza 101.4. Vabbè, certo, direi. Però oppure... stiamo cercando di risolvere il problema, ecco, quindi speriamo di risolvere presto, presto avremo buone notizie. Facciamo ascoltare Vincenzo qui. Ah, Vincenzo mi vuole dare i numeri. Può dare i numeri? Beh, Vincenzo, ricorda i numeri ai nostri amici. Ecco, per chi volesse interagire con noi. Vai, sì. Vincenzo, inviato. Allora, cioè... possono mandare un SMS sul 335-5637-251. Sì. Oppure sì, possono semplicemente telefonare allo 0921-923292. E noi alla fine siamo qua. Pronti a rispondere? Certo. Rispondo rispondere... io perché dal mio lato. Sei in regia c'è Jerry, quindi rispondere a lei. E metteremo le canzoni, insomma, richieste. Ricordiamo che non accettiamo squilla anonimi. Simpaticissimo Vincenzo. Che simpatico Vincenzo, bravo, sì, bravo. Allora, Vincenzo, tra poco lo andremo a scoprire meglio, insomma, cosa fa nella vita, eccetera, quali sì, sono i suoi hobby. Raccontiamo un po' qualche curiosità di Vincenzo, così lo ecco, facciamo conoscere un po', senza entrare magari nelle particolari, nella sua vita privata, no, non vogliamo essere troppo, dai. Non vogliamo essere invadenti, no, insomma. No, assolutamente no, una chiacchierata tra amici nel pomeriggio di Semplicemente Insieme. Ecco, Semplicemente Insieme, Semplicemente Insieme anche a Vincenzo, staremo qua ad parlare. Ma i tuoi amici di Cerda ti stanno ascoltando, lo sai? Non lo sai. Come vince tu, cioè, tu vieni... perché io dormivo, dovevo sbagliare prima. ma li dovevi avvisare, che ne so, no, li ho avvisati attraverso il Facebook. Ah, bene, già quindi... ho visto che smanettava su Facebook, per cui è in contatto già con i suoi amici e ci stanno ascoltando. Anzi, se ci ascoltano e vogliono mandare anche qualche dedica. E soprattutto di andare su Facebook e cliccare sulla nostra pagina CRM Mi piace. Mi piace. Mi piace. Giusto? Sì, clicca, certo. Mi piace e condividi. Bene, bravo Giuseppe, sì, Vincenzo. Vincenzo. E allora, Jerry, proprio in questo momento devi sapere, se vogliamo collegarci con Palermo, precisamente con Laura Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia, sì, si sta laureando una nostra amica che ci ascolta sempre. Ah, che bello! E sta per essere proclamata, sì, dottoressa in scienze del turismo culturale, per cui le facciamo bene, un in bocca al lupo con il massimo dei voti. Incrociamo le dita. Sì. Francesca, allora, in bocca al lupo e ti auguriamo il meglio veramente, non solo per la laurea ma anche per la vita. Per insomma, tutto, certo, certo. Naturalmente dedichiamo a lei questa canzone, sì, che so che piace, me l'hai detto poco fa tu perché comunque non la conosco così di nome, la nostra sì, Francesca, piace Vasco Rossi. E ci ha richiesto questa canzone, allora Stammi Vicino, non so a chi la vuole dedicare, magari ai suoi cari, per stare vicino a lei nel momento della laurea. E allora andiamo. E noi le staremo vicino, ecco, incrociamo le dita per lei, per questo giorno comunque importante, perché insomma sì, un traguardo dopo tanto, tanta fatica, finalmente ha raggiunto quindi il suo obiettivo. Ciao Francesca! Ciao Francesca, in bocca al lupo! Auguri! Non lo so dove andrò, ancora no. Vado dove vai tu e ti seguirò. Tanto non ho altro da fare più. Aspettavo te da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me, è destino ormai che io diventi quello che fa per te. Aspettavo, sai, da tanto tempo assenza di me. Aspettavo te da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. Stammi vicino e ogni cosa vedrai, che col tempo tutto si aggiusterà. CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. Sleep until the sun goes down. Vincenzo, noi continuiamo sempre con la bella musica. Adesso su questa canzone vado a salutare la nostra amica Roberta che ce l'ha richiesta. Un bacio, Roberta. Mostrami i segni delle tue ferite che mi sembrano guarite già da un po'. Guardati, questa speriamo che la nostra amica l'abbia trovato, giustamente, no Giuseppe? No, non l'ho ancora trovato, Jerry. No, tu ti sei informato su... Sì, perché mi ha mandato un sms Perché siamo in buoni contatti e dice ancora niente. Ancora niente, non l'ha trovato. Comunque no. Ci sono delle foto sue che la ritraggono molto, diciamo, è in forma, pienamente in forma. Poi l'abbiamo vista anche nella trasmissione di Amici sabato scorso, devo dire in ottima forma. E si avvicina anche, quindi parliamo di Amici praticamente. Ma io l'ho vista un po' più ingrassata. Quando mai? No, a me è sembrata più asciutta. Magari nel viso. Ma... un mio parere, Jerry, parere tuo, mi è sembrava un po' più grassa, più morbida, più diciamo voluminosa, così, più morbida. E parliamo anche di Amici, perché si avvicina, diciamo, il serale, e i direttori artistici di questo talent, di queste serate, saranno appunto Emma e il grande Miguel Bosé, che hanno formato tra l'altro sabato scorso rispettivamente le squadre bianche e la squadra bianca e la squadra blu. Inoltre sono stati svelati i big della musica che duetteranno coi cantanti della scuola, dalla grandissima Gianna Nannini a Fabri Fibra, passando poi per Marco Mengoni, il tuo preferito, e Fiorella Mannoia. Ci saranno due squadre, quindi una battaglia, un solo vincitore, e a guidare questa battaglia ci sono i due direttori, quindi artistici, Miguel Bosé e la nostra Emma. Sono pronti quindi a durettare al serale con i cantanti di Amici, grandi artisti ancora, ci saranno Anna Oxa, ancora Cesare Cremonini, Club Dogo, Nesli, insomma Michael Bublé ci sarà pure. Non lo sapevi. Mamma, certo. Non lo sapevo, vedi, sto apprendendo adesso la notizia. E poi ancora Alessandra Amoroso, che ricordiamo anche lei è uscita da questo talent, vincitrice anche lei. Poi Marrakesh, Meskilla, insomma ce ne saranno parecchi. E poi ancora, aspetta, per i ballerini invece ci sarà la possibilità di poter danzare con la compagnia di New York City Ballet, Eleonora Bagnato, la nostra siciliana doc palermitana, esatto, sì, prima ballerina alla Scala a Parigi, e Nicolas Lerich. Tutte le coreografie saranno di Giuliano Peparini. Quindi un grande... non perdere, assolutamente. Mamma mia, c'è un cast d'eccezione. Tra italiani e stranieri, devo dire che... un grande cast. Da vedremo, non perdere, insomma, il vincitore, chi sarà. Ci sarà solamente un vincitore quest'anno, a quanto pare. Cioè, o un cantante o un ballerino. Non ci saranno due vincitori. Sei sicuro, Giuseppe? Sì, sì, gliel'ho sentito dire. Mi ha mandato un SMS anche Maria di Pipa. Ah, bene, no, bene. No, l'ho sentito in diretta, diceva proprio questo. Insomma, sarà... un vincitore unico, praticamente, sì, sì, sì. O ballerino o cantante. Bene. E quindi speriamo che esca un altro talento. Sicuramente uscirà un altro talento. Bene, sono uscite appunto Emma, Alessandra Moro, Marco Carta, per esempio. Marco Carta, che adesso è stato un po' messo da parte. Valerio Scano. Però io c'ho un singolo, perché io, come ben sai, Jerry, vado a vedere la classifica di iTunes. Sì, noi lo sappiamo che tu ti informi. Sì, mi informo sempre. Sono sempre. Sempre, come no? Lo sappiamo. E abbiamo un pezzo di Marco Carta, Scelgo Me, che è al 13° posto, quindi sì, è ritornato, insomma, dopo un periodo un po' buio, è stato male qualche tempo fa, insomma l'ho ricordato anch'io, è tornato con questo nuovo singolo praticamente, quindi... esatto, quindi ancora Marco Carta, tanti altri, quindi speriamo viene quest'anno... scaricato anche lui, insomma. Viene scaricato anche lui, in che senso? Scaricato dai iTunes? No, nel senso, sì, scaricato dai iTunes, i brani... No, perché con te, insomma, bisogna specificare, perché magari, sai... è entrato a far parte di nuovo della top 20 dei brani scaricati da iTunes. Bravo Giuseppe, bravo che ti informi. Grazie, grazie. Ah, grazie. Dobbiamo fare un saluto, dobbiamo salutare due carissimi amici che ci hanno appena mandato un SMS, sì. Ricordiamo tra l'altro anche il numero, il 335-5637-251. Ci hanno salutato e noi li salutiamo, ci stanno seguendo, sono Sara e Ciccio. Sara, ciao. E Ciccio, ciao mi raccomando, Ciccio, restate sempre qui sintonizzati, ecco. Ancora abbiamo problemi con il server, quindi streaming, però ascoltateci naturalmente, possono seguirci sulla frequenza 101,4. Sì. E abbiamo qui il nostro ospite che sta smanettando su Facebook, perché a quanto pare sta ricevendo un sacco di messaggi. Sì, è vero Vincenzo, stai diventando... I suoi amici, insomma, lo stanno seguendo. Ti stanno seguendo, Vincenzo? Sì. Ah, meno male. Vai in onda, Vincenzo, mettiti la cuffia, non è abituato. Non è abituato, ancora, quindi lui parla senza la cuffia, noi facciamo giustamente da... Allora, saluta un po' i tuoi amici, dai. Volevo salutare innanzitutto Totino, Cettina, Daniele, Stefania e tutti coloro che ci stanno ascoltando e che mi sto dimenticando. E tutti quelli che ti conoscono. E anche tutti quelli che mi conoscono. Vabbè, certo, sicuramente. Anche chi non ti conosce, dai, salutiamo tutto Cerda, facciamo prima. No, chi non mi conosce, mi conosce adesso. È un tipo simpaticissimo, è abbastanza conosciuta Cerda. Ah sì, vabbè, io l'ho visto, insomma, abbiamo scambiato quattro chiacchiere da subito. Ecco, dal primo momento dal primo già momento, si vede, è un si tipo vede simpatico, teatrale secondo me. sì, dai, lo assumia, lo da, assumia. Teatro. Da teatro, da circo, da circo, da circo, da circo, da circo, da circo. E allora praticamente andremo a conoscerlo meglio, cosa fa nella vita, suoi cosa hobby. Fai? Chiediamolo adesso e poi magari andiamo avanti con Vincenzo, la musica. Vincenzo, cosa fai nella vita? Io faccio il cameriere. Sì. Lavoro in un hotel qui a Bonfornello. Ah. Possiamo dire il nome dell'hotel? È il Fiesta, l'ho detto. Vabbè, salutiamo, salutiamo il Fiesta. Madonna, ah, sì, è un bellissimo complesso, devo dire, di sì, Campo Felice. Sì. Salutiamo tutti i tuoi colleghi allora. Salutiamo tutto, ciao, tutto al lo staff. Fiesta Hotels. Ciao. L'Atene Palace, Campo Felice di Roccella. Va bene, ok, abbiamo fatto anche pubblicità anche questo, vai. Che ci vuole ogni tanto. Allora, poi, quali sono i tuoi hobby, Vincenzo? Cosa ti occupi, di che cosa ti occupi? Quando non lavori, cosa quando fai, non cosa lavori. Ti piace fare? Allora, i primi in classifica sono dormire e mangiare. Bene. Sono degli hobby che mi ci impegno parecchio. Sì, sì. Occupano sì. tanto spazio nella certo, mia vita. Certo, certo. E devi sapere, Jerry, che ha anche una vena artistica il nostro sì. Vincenzo. Sì, perché scrive e gli vengono spontanee delle poesie. Ah, ma ne hai qualcuna da farci ascoltare, sì, Vincenzo? Sì, ha una bellissima poesia e ce la farà ascoltare però magari dopo. Eh beh, certo, intanto sì, si sì, prepara sì. così lui, si calmo prepara, calmo. Poi... momento catartico, preparati. Preparati che poi la faremo poco, sentire. Sì, tra poco sentiremo questa poesia dedicata a cos'è? Qual è il tema? Ma il tema... il tema diciamo che non c'è, diciamo che è l'inconscio della notte, è la notte che mi parla, mi tiene sveglio e mi vengono fuori queste poesie. La notte porta consiglio, sì, sì, ispirazione, come sì. molti cantanti, no? Di solito, come parlavo nell'intervista con Matteo Barro, che è il nostro rapper cefaludese, mi diceva sì. che anche di notte vengono le ispirazioni e si alza e va a scrivere, ad appuntare tutto quello che gli passa per la testa. Quindi il nostro anche Vincenzo, fan 5000, si alza la notte per scrivere delle poesie. Giusto, bene. Quale sarà il tema? Lo vedremo dopo. Lo scopriremo insomma. Solo vivendo. Solo vivendo. E noi andiamo avanti con la musica e naturalmente siete, ricordiamo, rigorosamente in diretta. Che andiamo? La andiamo. Bella musica, andiamo. Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad. Be so sad to be losing you. Last night, when we had that fight in your car, left me at the bar, and I see her talking to her friends, acting like she just don't care. She has flair, and how she moves with such grace. Like she owned the space, she's so fine. She looks so cool, got no time. Nobody's fool, my girl. She don't read books, my girl. She gives dirty looks. I'm going to be what she wants me to be. I'm her man, doing all I can. My girl, she's above the rest. My girl, she's sure the best. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Oh. Oh.

my breath, letting it go. Turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath. Siamo tornati in diretta, siamo tornati in studio, naturalmente lo ricordiamo, magari per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, siete in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente con Jerry, con Giuseppe e oggi con il nostro Vincenzo da Cerda, il nostro fan numero 5000 che appunto ha cliccato ed eccolo qua, quindi fatelo, continuatelo a fare anche voi, andate su Facebook, cliccate CRMP Radio e andate sulla nostra pagina e così potete anche voi postare, commentare tutto quello che vi pare, anche fare le vostre richieste, le vostre dediche anche da lì. E allora Giuseppe, Vincenzo, come ti stai divertendo? Vincenzo si è messo a scrivere, Jane. Sì, perché abbiamo detto poco fa che Vincenzo è anche un bravo poeta, diciamo, ha questa vena artistica. Questa vena artistica poetica, si è messo a scrivere e vediamo cos'è uscito fuori. Secondo me è uscito ce la fai sentire adesso oppure dopo quello che hai scritto? Fai tu, come ti senti? Devi stare tranquillo. Beh, diciamo che sei ispirato in questo momento. No, non è l'ispirazione, è che qua uno si sente diverso, strano. Strano, da fuori uno immagina la radio, tutta un'altra cosa. Poi si ritrova qui. Poi si ritrova qui a parlare al microfono, con le cuffie. Dice, oddio, e che sai che dire? Li ascoltano tutti, quindi certo, si frena tutto. E allora, cosa dobbiamo fare? Se voi volete, se ho un po' di spazio, questa poesia la posso anche dire adesso. Sì, sì. Vai, dai. Allora, proclamaci la tua poesia, Vincenzo. Beh, speriamo che piaccia. Sì, ma sicuramente io l'ho letta e devo dire che a me piace. Poi ognuno ha i suoi gusti. Vediamo cosa. Magari poi fatecelo sapere, mandateci un messaggio, insomma, o chiamateci. Ecco, un momento romantico. Volevo dire, chi soffre di cuore non ci intrippi tanto su questo. Soffre di cuore non in quel senso, Jenny. Sì, lo so. Nel senso che soffre per amore. Chi soffre, ecco, per amore, perché no. Dovete capire che le poesie, anche se sono belle o magari sono dedicate a qualcuno, non è così. Io l'ho dedicata alla notte, perché non potevo dormire, mi e è pensato, quindi ti è pensato, venuto scritta, questo sì, in mente. Dai, ok, la poesia si intitola Gli attimi ed è così. Vorrei solo un attimo per poterti parlare. Vorrei solo un attimo per poterti guardare. Vorrei solo un attimo per poterti toccare i capelli, sono così belli. Vorrei solo un attimo per poterti adorare. Vorrei solo un attimo per poterti stringere la mano. Vorrei solo un attimo per poterti dire che io ti amo. Adesso vorrei solo una cosa, che gli attimi si fermassero, che si unissero tra di loro per creare per noi una vita insieme piena di beati. Ah, avete bravissimo capito il nostro Vincenzo. Vincenzo, che romanticone. Guarda, se ho bisogno mi scrivi qualche poesia. Beh, certo. Ma una... Giuseppe, non vale così. Diglielo, Vincenzo, non va. Mi farò scrivere le poesie per Jerry. Ma bisogna farsi guidare. Per Jerry. Vincenzo, per Jerry. Al massimo, possiamo. Io gli do le tracce. Esatto. Di solito sì, non si fa così. Di solito una scrive quello che pensa. No, mica si può far aiutare. Giuseppe, ma scherzi, stai scherzando, Jerry. Sai che c'è? Che se magari lui è troppo pieno di pensieri, non tira fuori nulla. E magari arriva uno come me, spensierato, e tira fuori tante belle cose. Ah, perfetto. Ok, quindi andiamo tutti da Vincenzo a farci aiutare a scrivere poesie d'amore. Numero di telefono 320. Non lo dare, Vincenzo, sta dando i numeri. Lo fai contro di te se lo dai. Esatto, arrangiati poi, come si suol dire. Ecco. E allora andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. E so che la prossima canzone Vincenzo voleva fare appunto una dedica, perché oggi accontentiamo anche il nostro Vincenzo e naturalmente tutti i nostri amici che in questo momento sono all'ascolto. Vincenzo, vogliamo questa dare canzone... di nuovo i numeri? Diamo i numeri, dai voglio numeri dare. Allora, inviate un vostro sms al 335 5637 251, oppure telefonate direttamente in diretta 0921 92 32 92 e fateci sapere cosa ne pensate. Insomma, siamo qua in compagnia, semplicemente insieme, richiedete le vostre canzoni e saremo qua ad accontentarvi. Allora, Vincenzo, questa canzone che tra un po' ascolteremo, allora, che tra l'altro è una bellissima canzone di Jovanotti, La bella vita, so che tu vuoi dedicarla insomma un po' ai tuoi amici. Agli amici che frequento, beh, diciamo che dobbiamo dire che la canzone magari doveva essere un'altra, ma magari per adesso facciamo la dedica su questa, poi magari ne scegliamo un'altra se vuoi. Ok, niente. Però è un inno alla vita, comunque, La bella vita. Sì, no? Infatti, questa canzone all'allegria, al sorriso. E mi hanno mandato adesso un messaggio ai miei amici ricordandoli, e non c'è bisogno che lo ricordino loro, perché lui è sempre nel mio cuore e sicuramente anche nei cuori dei nostri amici. Sì. E la dedico tantissimo a Giuseppe, che lui portava il cognome di Speciale, ma alla fine lui per noi è sempre Speciale. Quindi volevo dedicargli solo questa canzone, perché so che lui è tra di noi e ci ascolta. Ma e so che sicuramente l'ascolterà anche lui e a lui farà tanto piacere. E noi giustamente la dedichiamo anche, una bellissima anche, cosa anche a lui. Sì. Una cosa toccante. Bravo, allora, Vincenzo. La bella vita, Jovanotti, la dedichiamo ai tuoi amici. In maniera particolare al nostro Giuseppe. A Giuseppe. Al nostro Giuseppe che ci sta ascoltando. E anche noi la dedichiamo a Giuseppe, che sicuramente ci sta guardando e ci sta ascoltando. Va bene? Lo porteremo. Bisogna portarli nel cuore, gli amici, anche se poi non sono fisicamente con noi. Esatto. Però vi continuano a vivere standoci dentro al cuore, dentro la nostra testa, al cuore. Insomma, vive con noi, con i ricordi. Certo. Ecco. Allora andiamo ad ascoltare subito. Mon ami, je ne parle bien français, je salue Amadou et Mariam. Salut Leandro. Je suis content de jouer ensemble cette chanson pour la vie de tout le monde. Soyez les bienvenus en Afrique. Soyez les bienvenus en Afrique. Ali Mayadou Mambe. La bella vita con l'esperienza che segna il volto, le mani libere in tasca, il giusto nel cuore molto. La bella vita senza il delirio di onnipotenza, con la passione che rende amica la sofferenza. La bella vita che dura un'ora tra due infiniti, ti vorrò bene per sempre, sempre sono minuti. Tre, quando la belle vie, la freak, se sci, oh, la belle vie. L'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita. L'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita. L'Afrique, c'est chic. Oh, la belle vie. Ho nel cuore un desiderio che mi porta molto lontano. Una storia senza fine che lontano arriverà. Più feroce di una leonessa, più veloce di una gazzella, più leggera di una farfalla. La bella vita. L'Africa, Ali Maya Dumambe Africa, Senia Dumambe Africa. La bella vita con una stella lassù che brilla, e una farfalla che si è posata sulla tua spalla. La dipendenza dall'esistenza, la leggerezza della coscienza, quando ti dice che il tempo andato non tornerà mai più. La belle vie, l'Africa, se sci. Oh, la bella vita, l'Africa, se sci. La bella vita dopo che hai perso qualsiasi appiglio, con il sudore come un diamante sul sopracciglio. La bella vita quella che auguro ai miei amici, a chi si perde tra mille incroci e a chi l'augura pure a me. Oh, te jolie fille, l'Afrique, c'est chic. Oh, te belle dame, l'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita, l'Afrique, c'est chic. Oh, la bella vita, l'Afrique, c'est chic. Oh, la belle vie. On chante toutes les chansons qui nous viennent par la tête. On danse, on saute, on bouge dans tous les sens. On parle, on rigole, chez nous c'est la fête. L'Afrique, c'est chic. La bella vita. La bella vita. La bella vita con il il sorriso a 36 denti e un po' di musica che lubrifica i legamenti. Con un amore abbastanza grande da far pensare che l'universo l'ha fatto apposta perché voi due vi incontraste là. La la la la bella vita, abbastanza bella da essere vita. La bella vita, abbastanza vita da essere bella. La bella vita con i bambini che vanno a scuola e la fiducia che si accontenta di una parola. La bella vita che fa confini senza confini, come i bambini, come i bambini, come i bambini. La bella vita, Africa, se sì. Oh, la bella vita, l'Africa, se sì. Oh, la bella vita, l'Africa, se sì. Oh, la bella vita, l'Africa, se sì. E a Duma me, Africa, si chiamavogna Duma me, Africa. La bella vita. Africa. La bella vita. Toni eleve Africa. Ali Adama de Adumambe Africa. Etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera. La bella vita. Etcetera, etcetera. La bella vita. La belle vie. L'Afrique. C'est chic. Merci à ma due Mariam. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Yeah.

cioè, sarà bellissimo proprio da mettere sta crema. Praticamente la passione degli americani e degli inglesi è, giustamente lo sappiamo, è per il bacon, no? Ha già creato quindi molti prodotti insoliti, ma c'è chi riesce comunque ad inventarsi qualcosa di nuovo. Un'azienda americana, la J&D, ha introdotto la crema da barba al sapore di bacon. Il prodotto viene descritto come una crema da barba di fascia alta, quindi di lusso, al profumo di appunto di bacon. Ma fa venire il colesterolo, Jerry. Ma quando mai? L'ideatore di questa insolita crema, Justin Elsk, spiega che non c'è più niente di più potente del profumo di bacon, e te credo. Il bacon è l'odore dei campioni, dice. La colazione è il passo più importante della giornata e il bacon è la parte migliore della colazione, quindi perché non profumare allo stesso modo ed essere quindi migliori? Diciamo che questo è un discorso da amante sfegatato della pancetta, senza ombra di dubbio, ma non deve stupire, dato che la J&D ha come motto aziendale "tutto dovrebbe avere il sapore di bacon". Dell'azienda avevano già parlato un paio di anni fa, quando introdussero, pensa, le buste al sapore di bacon. Ma nonostante i prodotti più disparati creati finora al sapore di bacon, Ask spiega che ha ancora molte molte idee. Per esempio, sta seriamente pensando, per quelli che amano il bacon da morire, ad una bara rivestita interamente, ecco, ritorna alla barra, rivestita interamente di bacon. Quindi vedremo se anche questa bizzarra idea diventerà poi alla fine realtà. Quindi perché non la compri tu sta crema al profumo di bacon? Mi fa venire il colesterolo, Jerry. Ma dai, smettila. Ma poi è evidente che è una trovata pubblicitaria, insomma. È una trovata, sì, pubblicitaria al profumo di bacon. Crema al profumo di bacon. Ma tu, a te piace il bacon? No. Quindi un uomo che profuma di bacon sarebbe, insomma, da allontanare praticamente, ecco, allora, tipo allora. Vai via. C'è il nostro Vincenzo che ci chiede la linea, vediamo cosa. La linea, sì, diamo la linea a Vincenzo. No, penso che in onda quello non lo posso dire, ragazzi, quindi è meglio di no. Allora, ti raccomando, Vincenzo, non dire parolacce. No, parolacce no. Ha detto una cosa sul bacon che forse non si può dire. Evitiamo di dirla. Infatti. Vincenzo, stai calmo, fai il bravo, ti raccomando. Cioè, evitiamo. Non dire parolacce. No, parolacce no, non esistono nel mio vocabolario. Però dico, fortunatamente. Cioè, che ne pensi tu di sta crema al bacon? Dai, senza dire parolacce. Cioè, tu ti avvicini a uno e dici, ma quello si sa di maialino. Cioè, che senso? Cioè, dico. Ecco, siamo arrivati là. Insomma. Sì, cioè, gliel'ho fatta io la domanda, quindi mea culpa, praticamente. Ecco, okay, colpa tua, me la so cercata. Quindi per tutti i tipi un po' maialini, ecco, quella. Un po' potrebbe... strani, diciamo un po' strani. Ecco. Insolita, la crema al bacon è un po' insolita, però c'è a chi piace, soprattutto parlavamo appunto di americani e inglesi, che lì il bacon si mangia praticamente sempre, continuamente, e quindi hanno ideato ovviamente anche la crema al bacon. Sa, magari ci sarà la prossima crema da barba al patatine fritte. Perché no? Genere. Vedi che ne inventano parecchie cose strane, quindi non è questa la prima. In America e in Cina. Sì, in Cina l'altra volta c'era il profumo al sushi, quindi voglio dire, allora, non è... Sushi, io amo il sushi. quindi vabbè, dai, lasciamo perdere. Vogliamo ricordare la nostra rubrica. Quale rubrica? Sto scherzando, dai, la rubrica di mercoledì pomeriggio, a partire sempre dalle 15:15 circa, con il nostro Happy Cinema. Happy quindi... Cinema, che sta avendo un notevole successo anche su cefaluweb.com, sì. Perché i likes, sai che ci sono i likes. Ma lì, va, Giuseppe, me lo devi spiegare tu, guarda. Ecco. Sono abbastanza, diciamo, riguardo all'articolo sempre di Happy Cinema, che esce sempre il giovedì, venerdì, sul sito. E quindi prossimamente avremo anche i ragazzi che ci lavorano, insomma, là. Magari giustamente li ospitiamo in studio, parleremo un po' con loro. Li ospiteremo, ci faranno, insomma, sapere i loro progetti, eccetera, eccetera, perché Cefaluweb è un sito di informazione locale, insomma, non indifferente. Vedremo tantissime foto, eccetera, per cui. Quindi non perdiamoci questo appuntamento, ricordiamo mercoledì con il nostro Epicinema, parleremo sempre dei film più visti. Non accenniamo nulla, dai, lasciamo uscite, tutto. Film più visti, ci sarà sempre Caterina da Palermo, la nostra inviata. Come che no? È andata già a vedere un film che non sveliamo quale. No, non sveliamo, altrimenti poi non c'è più la sorpresa, quindi evitiamo. E quindi rimanete con noi, siateci mercoledì pomeriggio con Happy Cinema. Naturalmente all'interno di Semplicemente insieme. Ovviamente, ovvio, questo proprio con Geraldine. Con Jerry e Giuseppe, adesso c'è Giuseppe che sarà con noi per un po' di tempo, poi ahimè ci saluterà perché non so dove va Giuseppe. Giuseppe sparisce sempre continuamente. Parto. Parti? Dove vai? È in fine al mondo, guarda. Beh, vabbè, bravo, divertiti allora. Non posso più vederti. Ah, grazie, gentile.

lasciato il cuore e la mia vita è ferita. Per te che mi strappi il cuore e la mia vita è ferita. Coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. Canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente rigorosamente in diretta, insieme a Jerry, insieme a Giuseppe e oggi anche insieme al nostro Vincenzo Dacerda, il nostro fan numero 5000 che appunto ha vinto un pomeriggio insieme a noi. Allora Vincenzo, ti sei divertito? Come sei stato? Beh, si è divertito e ha fatto pure divertire. Sì, ma è simpatico il nostro Vincenzo, come no? Beh, cosa dire? Cosa dire? Le ultime battute? L'esperienza? In una sola parola, meravigliosa, ragazzi. Ah, bene, bene, grazie, siamo contenti. Quando vuoi, vienici a trovare, le nostre porte sono sempre aperte, quindi tocca a te adesso, quando preferisci. Va bene, grazie. Va bene, l'invito. Quando si sveglia, quando magari, si perché sveglia. Magari a quell'ora è sempre a dormire. Di notte la trasmissione non c'è, non vero? Sì, va in replica, ricordiamolo. Va in replica. Ah, allora ricordiamolo, così magari... O anche in podcast, quindi andate sul sito e andate, potete andarla ad ascoltare. Quindi Vincenzo va a riascoltarla poi sul nostro sito, capito? E di notte posso sapere a che ora di notte? No, di notte, non è che va di notte. Cioè, va in onda alle verso... 22, questa ecco, sera, sì, intorno alle 22 qualcosina adesso. In automatico va in onda la nostra replica. Quindi Vincenzo... Allora... Dato che magari stasera l'ascolterò con i miei amici, non posso fare a meno che salutare ancora nuovamente i miei amici da Cerda e tutti coloro che mi conoscono. Certo. Ah, salutiamo tutta Cerda. Salutiamo tutta Cerda, tutti gli amici di Cerda, tutto il paese. E allora, Giuseppe, le ultime battute.